Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini. Buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori di Radio 24. Beh, che cosa succede domani? Cosa succede domani? Domani si torna a scuola, no? Quindi noi ci siamo domandati, si può fare lezione? E questa è la domanda diretta, diciamo così, sulla attualità, no? Abbiamo parlato di banchi, abbiamo parlato di termoscanner, abbiamo parlato di moltissime cose e adesso è il momento di capire se si può fare lezione. Si può fare lezione nella nostra scuola, ma si può fare lezione nella vita, si può ricevere una lezione da qualcheduno nella vita, in che edifici facciamo lezione o sarebbe bello fare lezione, con che strumenti facciamo lezione e che maestri per esempio abbiamo avuto. Io ricordo un direttore qui a Radio 24, il direttore Zamboni, disse telefona ad Arafat, vediamo se risponde, sta parlando con la BBC, magari risponde anche a te. Beh, allora chiaramente era impossibile, ma Cosa ho imparato? Che bisogna tentare, perché comunque io con qualcuno là alla Mukata parlai, no? Al quartier generale di Arafat. E quindi che maestri magari volete ricordare con noi all'800 24 00 24? Che lezioni di vita volete raccontarci attraverso i vostri messaggi? 349 238 6666. Non si finisce mai di imparare, impariamo anche in questa puntata, appunto. Che lezioni abbiamo avuto, che lezioni avremo, proviamo a immaginare insieme il futuro. Proprio a proposito del prossimo futuro, in collegamento con noi Gianni Trezzi, dirigente scolastico del liceo Parini di Seregno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e ben ritrovato, perché comunque Grazie. Lei ci ha accompagnato per molto tempo nei mesi scorsi durante il lockdown, ci leggeva una poesia, la leggeva a noi in diretta, la leggeva anche a chi le telefonava, no? All'epoca Era un'iniziativa di solidarietà, di scambio, di compagnia, eravamo tutti chiusi a casa, avevamo bisogno di compagnia e lei pensò: abbiamo bisogno anche un po' di poesia, la poesia è anche lezione, no? Sì, di poesia e del bello, la poesia è bella e quindi... Quello, il bello è ciò che ci aiuta poi a sopravvivere sempre, in qualsiasi caso, in qualsiasi situazione critica della nostra vita, se noi pensiamo a cose belle, sarà banale dirlo, ma ti dà forza. Sì. Ma di cose belle, beh, all'epoca ce n'erano pochine, certo, lei disse la poesia, cerchiamo di, no, di trasmettere il bello attraverso le parole dei poeti. La chiamano ancora magari per qualche poesia, qualcuno che si è affezionato? Chiamato fino a... Guardi, a poco prima delle vacanze estive, la signora mitica, signora Nuccia di Bergamo, che ha continuato per un lungo tempo, poi anch'io sono andato via, ci siamo un po' persi di vista diciamo, certo. Così, e di telefono. Ecco, più che però altro. Magari, chissà, magari, so che è una affezionata ascoltatrice di Radio 24, magari poi mi richiama dopo questa. È vero, magari comunque può usare noi per salutarla, se vuole telefonare adesso, per esempio, potreste parlarvi radiofonicamente, risalutarvi. Se hai un ascolto, sarebbe bello. Certo. Dai, proviamoci, come si chiama la signora che non ricordo? La signora Nuccia di Bergamo. Signora Nuccia, se ci sta ascoltando, chiami in questo momento l'800 24 00 24, la facciamo così salutare il preside Trezzi. Senta, la scuola riapre, lei quanti ragazzi ha nei suoi plessi? Noi abbiamo una scuola abbastanza grossa, sono 1410 alunni suddivisi su tre plessi, perché non ci facciamo mancare nulla, quindi, e anche su due città diverse, Seregno e Lissone. Così dovete saltellare da l'una all'altra. È una scuola molto complessa e abbiamo classi, cioè aule purtroppo piccole, quindi abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Noi siamo una scuola secondaria e secondo grado, un liceo per la precisione, liceo umanistico, e quindi abbiamo in questo caso potuto fare la scelta di come dire di fare una didattica mista, come si dice adesso, integrata. Quindi metà degli alunni verranno in presenza la prima settimana successiva verranno gli altri alunni, quindi una scuola che farà didattica integrata al 50% del tempo. In classe avremo è chiaro che è un sacrificio, immagino, anche per i professori stessi, perché allora, comunque c'è molto timore da parte un po' di tutti, da parte dei docenti, da parte dei genitori, meno degli alunni secondo me, perché per fortuna l'adolescenza li porta sempre ad amare anche le sfide più improbabili. Però secondo me è un'occasione straordinaria. Io, guardi, facendo questo lavoro ritengo che il bicchiere sia sempre mezzo pieno, altrimenti l'avrei cambiato un pezzo. E sono convinto che la scuola italiana possa avere l'occasione per rinnovare la propria metodologia. Penso che sia un'occasione più unica che rara. Ecco, da quando io faccio questo lavoro non è mai capitato di questo tipo. E quindi io confido che lavorando, per esempio, adesso si è fatta molta ironia, no, sulle cosiddette classi capovolte, sulle flipped classroom, però io sono convinto che lavorando in modo, come dire, positivo, la letteratura dice che funziona straordinariamente, ci sono articoli su articoli che dicono che funziona, ed effettivamente accompagnando il docente che non conosce questa metodologia si può fare molto bene, mettendo insieme poi quell'apprendimento cooperativo, l'aiuto tra i pari, valorizzando gli alunni, costruendo quella che potremmo definire una comunità di pratiche che poi si evolve per diventare una comunità di ricerca, facendo in modo che il docente si ponga più come facilitatore dell'apprendimento che non come colui che trasmette conoscenza. Però voi avete dovuto lavorare tanto, immagino, con i docenti per fare questo cambiamento. Avrà dovuto lavorare molto con i docenti, immagino, e dall'altra parte immagino anche che i docenti dovranno capire che i ragazzi arrivano da 6 mesi senza stare sul banco. Sì, è così. Che hanno una disabitudine proprio a stare in aula, a fare attenzione per un periodo di tempo lungo. Si troveranno anche, almeno per quanto riguarda la nostra situazione, con metà dei compagni in presenza. Esatto. Noi poi abbiamo previsto una rotazione bimestrale proprio per evitare che si crei una classe A, una classe B, insomma. Ecco. Quindi sarà molto complicato, però io sono convinto che si possa fare bene. Tra l'altro, fare lezione con 10-12 alunni avrà un livello di qualità di interazione tra docente e alunno molto superiore rispetto a quella che c'è quando hai 24, 25, 27 alunni. Quindi è vero che si fa lezione in presenza per un tempo dimezzato, ma io penso che la qualità possa migliorare tanto. E comunque non è che a casa non si faccia nulla, noi partiremo come penso la maggior parte delle scuole con gli alunni collegati da casa, ma l'obiettivo nostro non è quello di fermarsi lì, anzi io ho insistito molto su questo nelle nostre linee guida perché sia solo il punto di partenza e si possa lavorare nella prospettiva che dicevo, classe capovolta, apprendimento cooperativo, lavoro per piccoli gruppi che io sono convinto che funzioni splendidamente se ben guidato. Facendo in modo che gli alunni imparino ad imparare, ecco, diciamo così, e soprattutto possano lavorare aiutando gli altri, aiutando chi capisce meno, chi ha capito meno, chi ha bisogno di essere un po' più guidato, certo. Io, mi illuderò, perché io sono anche molto ingenuo, la verità, però sono convinto che funzionerà. Bene. Sono convinto che è vero che l'Italia è un paese strano. L'Italia è un paese strano perché c'è gente che naturalmente, io spero che la maggior parte confidi che vada tutto bene, ma c'è sempre qualcuno che è lì e che attende che vada tutto male per poter criticare, perché questo è fa un po' parte della nostra natura. Ma guardi, se si è fatto scuola, si è fatto scuola in situazioni incredibili, non so, mi è venuto in mente proprio mentre pensavo all'intervento, mi è venuto in mente quelle pagine straordinarie di Se questo è un uomo, quando Primo Levi racconta il 26esimo canto dell'inferno, il canto di Ulisse al suo compagno piccolo, stava facendo scuola. Scuola si è fatta quando su Sarajevo cadevano le bombe. Don Milani ha fatto scuola in un paesino minuscolo e e ha portato un'esperienza straordinaria. Quindi scuola si fa sempre, scuola si continuerà a fare sempre. È la volontà, certo, diciamo, vuole, che vuole... dobbiamo avere. Sì, dobbiamo avere la volontà di farla. Senta, sì. Ci lascia con una poesia come facevamo una volta? Anzi, io vi ringrazio per avermela chiesta, perché spero che sia un augurio per tutti, che sia un anno proficuo. E pensando a qualcosa di vitale, di vitalistico, io poi cado sempre su quella che è la mia passione, cioè il buon Gaio Valerio Catullo, e quindi vi leggerei il Carme Quinto, che secondo me è un inno alla vita. E noi l'ascoltiamo. Godiamoci la vita, mia lesbia, l'amore, e il mormorio dei vecchi inaciditi, consideriamoli un soldo bucato. I giorni che muoiono possono tornare, ma se questa nostra breve luce muore, noi dormiremo un'unica notte senza fine. Dammi mille baci e ancora cento, dammene altri mille e ancora cento, sempre, sempre mille e ancora cento. E quando alla fine saranno migliaia, per scordare tutto ne imbroglieremo il conto, affinché nessuno possa stringere in malie un numero di baci così grande. Grazie, preside. Grazie a voi di aver Gianni chiamato Trezzi. E grazie. Buon anno scolastico a tutti. Vivamus. E a tutte. Grazie. Grazie molte. Abbiamo la viabilità Gianni Trezzi. In bocca al lupo a lei, ai suoi studenti e a tutti gli studenti d'Italia e professori. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Oggi ho imparato a volare e non me ne voglio più dimenticare. Da tutti i miei amici in visita andrò e alle loro finestre io bussare dirò: guarda, ho imparato a volare, è facile, anche tu potrai imparare. Ti devi solo un poco concentrare e devi scegliere dove vuoi andare. Se bene sceglierai, allora potrai cambiare. Se non ti disperderai, allora potrai volare. Forse qualcuno si spaventa, guarda in basso non ci vedrà, e chi non vuole vedere non ci crederà, ma ci sarà certo qualcuno che proverà, e allora... Si può fare lezione, ci stiamo chiedendo. Il preside Trezzi da Seregno, come sempre con il suo ottimismo, ci ha detto: si può fare lezione, e come si cambia il modo di fare lezione. Si può fare lezione, come dicevamo all'inizio, a chi a scuola ovviamente già ci va, come abbiamo sentito, con tutte le difficoltà consuete, con tutti i contingentamenti di quest'anno, ma si può fare lezione anche a coloro che erano scoraggiati, perché questo paese è un paese strano, un paese che guarda con pessimismo spesso a quello che fa, ma in realtà a volte fa cose straordinarie e riesce a tirar fuori dei ragazzi che erano scoraggiati, i cosiddetti NEET, quelli che non studiavano e non lavoravano, e riportarli, rimetterli in pista, rigasarli. E lo ha fatto attraverso un progetto che si chiama Ad Astra Project, promosso dalla Fondazione di Comunità Milano in collaborazione con Campari Group Italy e Lavazza. Filippo Petrolati è il direttore Fondazione Comunità di Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e buona domenica. Allora, ci sono quelli che a scuola ci vogliono andare, volenti, o ci devono andare, non lo so, ci sono quelli che avevano mollato un po' tutto, anche le speranze, diciamo così, e in Italia sono talmente tanti da avere noi il record in Europa di coloro che non studiano né lavorano, in quella fascia di età in cui di solito invece si è attivi. Sì, esattamente, i numeri sono impressionanti, diciamo che questo progetto... 2 milioni? Quanti sono? Ma siamo su 2 milioni e 2 in Italia, le stime sono queste, quindi il 24% dei giovani. Questo progetto Ad Astra Project nasce non solo per i NEET, ma anche per ragazzi che comunque hanno avuto delle difficoltà da un punto di vista personale, sociale ed economico. Sono ragazzi dai 18 ai 24 anni che non hanno mai avuto un'occupazione oppure sono disoccupati da oltre un anno. È un progetto di alta formazione nel settore del food and beverage, accreditato dalla Regione Lombardia, in collaborazione con la cooperativa sociale AI, che è una cooperativa che si occupa da tanto tempo di politiche attive per i giovani, e appunto con l'opportunità di frequentare le Academy di Italy Lavazza e Campari. Questo nasce nel contesto della Fondazione di Comunità Milano, mi lasci dire due parole, che è una fondazione nata un anno e mezzo fa circa, proprio per aiutare le persone e le aziende a realizzare le proprie finalità filantropiche o di responsabilità sociale nel caso delle imprese, in stretta connessione con le istituzioni, il terzo settore e incrociando quelle che sono poi le priorità e i bisogni del nostro territorio. E i bisogni appunto erano anche questi, no? Specificamente dei giovani che avevano, ma per quali motivi uno poi si trova, no, così in questo limbo? Beh, consideri che sono ragazzi, allora il nostro progetto è stato avviato tra settembre e ottobre 2019, è stato aperto a tutti, le candidature che sono arrivate sono oltre 60, poi abbiamo selezionato 30 ragazzi con i quali abbiamo avviato un percorso laboratoriale e motivazionale relativo ai soft skill. Da 30 si è passate poi a 20 che hanno intrapreso il percorso formativo affiancato da due case manager che proprio avevano il compito di seguire questi ragazzi a 360 gradi aiutandoli sia nel percorso formativo professionale ma anche nella loro vita autonoma collaborando con tutti i servizi del territorio. Sono ragazzi, la metà sono stranieri, sono 12 maschi, 8 femmine, titolo di studio è diploma e terza media e sono anche ragazzi la metà che arrivano da percorsi di comunità, di seconda accoglienza, che stanno cercando in qualche modo di ricostruirsi un futuro e un'opportunità di vita migliore. Quindi sono le situazioni più variegate. Sì, però quindi... persone che comunque una volta rimesse in gioco sono ripartite, avevano persone bisogno di quella spinta. Ma persone che hanno dimostrato una motivazione incredibile. Tra gennaio e febbraio 5 ragazzi sono 2020 sono partiti per dei percorsi di training on the job presso Italy. Saranno lì 6 mesi, ovviamente purtroppo durante il lockdown non è stato possibile, ma andranno a concludere il loro percorso di macellaio, pescivendolo, in gastronomia, panetteria. Hanno imparato un mestiere dentro Italy, stanno imparando un mestiere, 5 di questi ragazzi. Gli altri 15, a partire sempre da gennaio e febbraio, hanno avviato dei percorsi di formazione presso le Academy, quindi prima Lavazza, addirittura Settimo Torinese, si alzavano alle 6 di mattina per prendere un pulmino, andavano nel contesto di Lavazza, che comunque è molto bello, è un'Academy meravigliosa, poi Campari e poi anche loro in Italia. Il tutto sono un percorso formativo di 250 ore. La cosa davvero che ci rende più orgogliosi è proprio questa, cioè tecnicamente si chiamano drop out, cioè ragazzi che non ce la fanno, la tenuta, non sono ragazzi che sono abituati a perseguire un impegno in modo costante e continuativo. Ecco, quello che ci ha reso più orgogliosi è stato proprio questo, il fatto che anche grazie a questi case manager che li hanno seguiti passo dopo passo, anche durante il lockdown, questi ragazzi hanno tenuto e hanno concluso tutti con successo il percorso formativo. Quindi oggi io, visto che ho un minuto solo prima di salutarla, sì, le chiedo, lo rifate quindi? Certo, lo facciamo, adesso sono tutti in tirocinio lavorativo, nonostante il lockdown abbiamo trovato esercizi commerciali e aziende di settore che li hanno accolti, faranno 4 mesi di tirocinio, finirà a dicembre e io sono sicuro che saranno richiesti dal mercato del lavoro del food and beverage, perché persone così qualificate credo che nei bar della nostra città sia difficile trovarle, quindi noi siamo molto quindi si può fare sicuramente... quindi si può fare, si può rifare in questo caso. Filippo Petrolatti, io la devo salutare e ringraziare moltissimo per questo collegamento, il direttore Fondazione Comunità di Milano. GR24, torniamo subito dopo con ancora Si può fare e ritroviamo qualcuno ai nostri microfoni. Si può fare. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page. Bookmarking, she's so close now. This girl is half his age. Ve l'ho fatta sentire a lungo, si parla ovviamente di professori, si parla di starmi vicino ma neanche troppo, anzi stammi lontano. Insomma, io so per certo che in questa puntata di Si può fare, questa domenica, ritroviamo vicino ma lontano Marco Malvaldi. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti, salve. Come tremebonda la tua voce, dove sei? A Mantova, giusto? Sono a Mantova, esattamente. Ma ci dobbiamo ricollegare, perché altrimenti così non riusciamo a fare lezione di niente. Il tema della puntata è: si può fare lezione? Fino adesso l'abbiamo preso proprio in maniera, diciamo, diretta. Abbiamo parlato con il mitico preside Trezzi, così ci ha scritto un ascoltatore che evidentemente lo ha conosciuto e che ci ha detto come si può fare lezione quest'anno, con una lezione diversa, con modalità diverse, imparando tutti a rapportarsi in modo diverso alla scuola. Abbiamo parlato con la Fondazione Comunità Milano, che si occupa di formare giovani che avevano lasciato sia il mondo del lavoro sia quello della scuola. Marco Malvaldi, ci sei adesso? Sentiamo un po'. Adesso credo di esserci, proviamo. Sì, perché prima c'era un po' quell'effetto pecora, così balbettante. Senti, io ho visto che lì a Mantova, a proposito di far lezione, state mettendo sulla griglia diversi scrittori, tu e Davide Ruffinengo. Fate un po' lezione di scrittura, si fa lezione di scrittura, per esempio? Esistono tante scuole per farlo, ma vale più la scuola in questi casi o quello che abbiamo dentro? Beh, bisogna trovare il giusto equilibrio. C'era un signore abbastanza famoso che si chiamava Michel de Montaigne, che diceva che non bisogna insegnare, ma bisogna far imparare. Montaigne diceva che la parola è per metà di chi la dice e per metà di chi la ascolta. Quindi ci deve essere la capacità di insegnare da una parte, ma ci deve essere anche la capacità di recepire da quell'altra, perché se dico una parola in giapponese, tipo dico la parola shashin, io ho detto una parola della quale conosco il significato, ma non lo so mica se tu hai capito a cosa mi riferisco. Beh, quello poi con le lingue è la cosa fondamentale, sicuramente. Non basta la parola in quel caso lì, no? Chiaramente uno sa la parola ma non sa che cosa sta suscitando nella testa di chi parla quella lingua, e quindi tutto ciò che sta dietro una parola. Abbiamo in collegamento un ascoltatore, Massimo da Prato è chiamato per parlare per l'appunto di scuola. Massimo, buongiorno. Buongiorno, scusi, mi sto spostando. Buongiorno, io ho chiamato perché avevo ascoltato l'intervento del dirigente scolastico antecedente, no? E ritengo che, insomma, io ho insegnato per 40 anni economia e quindi, insomma, un po' di scuola l'ho fatta. E negli anni, negli ultimi 20 anni, però, mi sono dedicato spesso a progetti sulla formazione degli adulti, con la didattica mista, un po' di scuola e un po' lavoro a casa. E ho visto che i risultati che si sono ottenuti, se c'è una condivisione del problema, non sono poi così negativi. Quindi si può fare, lei dice, bisogna cambiare le modalità, bisogna cambiare la testa. Le dico, io nel 1989-90 ho lavorato all'Università di Bruxelles, alla Facoltà di Didattica Sperimentale, in un progetto finanziato, il progetto Petra, sull'insegnamento dell'economia attraverso gli strumenti informatici. Allora non c'era Excel, non c'era Windows, però ecco, quando andavamo a fare corsi ai docenti spesso si incontrava una certa resistenza, però una volta capito il metodo buona parte di queste persone lo condividevano, quindi i risultati poi che ci hanno reso sono sempre stati risultati molto positivi, ecco. Massimo, grazie molte, grazie davvero di questa sua testimonianza. Un'altra esperienza e poi chiudo. Velocissimo deve fare, perché sa che c'è la viabilità poi. Velocissimo, guardi, io ho un bambino di 8 anni, anche se sono grande, e ho visto che durante il periodo in cui lui ha lavorato al computer, lui ha avuto un miglioramento addirittura in alcune sue competenze, quindi se la didattica è fatta bene con la metodologia, io sono convinto che funzioni, basta avere le competenze ovviamente. Certo, sia per insegnare bisogna essere ricettivi dall'altra parte. Massimo, grazie. Marco Malvaldi sempre in collegamento con noi. Senti, ma ti possiamo considerare ormai un co-conduttore qui? Direi di sì, dai, ci stai. Ma assolutamente ci sto, se voi siete d'accordo, io l'ho detto. Noi ci stiamo, noi siamo felici, ci fa piacere, anzi ci fa molto piacere avere le tue osservazioni e anche le tue storie di vita di ping pong, per esempio, che sono sempre molto curiose. Lì ti hanno impartito una bella lezione. Una volta sì, perché una volta ho fatto un allenamento a Milano con un famoso giocatore, Yang Min, che nonostante il nome è ormai italiano a tutti gli effetti, è stato numero 30 del mondo, e appunto l'allenatore inizia la lezione, mette la prima palla in gioco facendola rimbalzare sul tavolo, io non ho ancora toccato la pallina, porto la racchetta indietro e lui mi dice stop, poi viene da me, mi guarda e mi fa prima piede. E io non capisco, perché non ho ancora toccato la pallina, come faccio ad aver sbagliato? In realtà aveva ragione lui, perché aveva visto che nel caricare il colpo non avevo distribuito bene il peso del corpo sui due piedi, non avevo mosso prima il piede, quindi non avevo una solida base per fare il colpo. Quindi mi sono trovato nella magnifica situazione di aver sbagliato prima ancora di incominciare, che è una sensazione abbastanza lisergica. Io credo che ti abbia pietrificato, non so come siete andate avanti. Di sicuro adesso andiamo avanti con la viabilità, torniamo tra pochissimo e parliamo del si può fare lezione dove, in che luogo, in che, no, proprio intendo dire casa, in che ambiente. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sempre in diretta per parlare di lezioni che si possono fare o si possono impartire o si possono ricevere, chiaramente. Marco Malvaldi, lo scrittore, ormai ufficialmente co-conduttore di Si può fare in questa fascia della domenica, in collegamento con noi tra l'altro dal Festival Letteratura di Mantova, quindi proprio nel suo ambiente. E abbiamo in collegamento adesso Mario Cucinella, l'architetto. Buongiorno architetto, ben ritrovato. Sì, buongiorno, buona domenica. Mi fa molto piacere che lei torni con noi a parlare. L'anno scorso parlammo di muri, si ricorda, muro di Berlino, c'era l'anniversario. Quest'anno parliamo di scuole, e quindi parliamo proprio dell'opposto, direi, di qualcosa che dovrebbe aprire noi stessi al mondo, no? La scuola è proprio un luogo che va anche, secondo me, progettato con questa idea, non pensa? Assolutamente, anche perché, come dicevano anche i nostri padri fondatori delle nuove pedagogie, penso a Loris Malaguzzi, Reggio Children, l'architettura è il terzo educatore, quindi ci sono tanti livelli di educazione in una scuola, no? Che non è soltanto l'apprendimento, no? Ma l'organizzazione dello spazio, il modo con cui i ragazzi si incontrano e che cosa gli vogliamo dire, no? E ovviamente l'architettura è un racconto, anche quello, è una forma di educazione. Credo che c'è un'evoluzione abbastanza straordinaria del concetto della scuola, non è solo una destinazione, diciamo, con un'unica funzione, vado a scuola perché ho le lezioni, vado a scuola ma i ragazzi ci stanno dicendo vado a scuola ma poi voglio restare con i miei amici a studiare, a parlare, voglio un luogo connesso. Voglio usare gli spazi per fare dei workshop con gli altri ragazzi. Quindi c'è un concetto di evoluzione dell'idea della scuola che trovo sia anche un po' rappresentativo di un'evoluzione di una società che sta cambiando, sta diventando qualcosa di più complesso. Marco, avevo lasciato... non ti sentivo più, ho avuto quell'attimo di paura. No, ci sono. Quello che mi veniva in mente, ecco, è che se io raffronto il luogo che sta descrivendo Cucinella con il luogo nel quale io ho fatto scuola e mio figlio fa scuola, mi vengono i brividi. Allora, visto che lei le scuole le ha costruite e le ha viste, le scuole italiane principalmente che difetti hanno in questo momento? Italiane sono il prodotto di un momento che è negli anni 70, negli anni 80, in cui hanno, come dire, sono state fatte... seguendo le norme, no? E le norme purtroppo non sono intelligenti e non sono neanche belle, no? E comunque non la producono la bellezza, no? E quindi molto spesso queste scuole sono proprio degli scatoloni, sono il corridoio con le aule, cioè non c'è un'anima, non c'è un'idea del perché quello spazio è fatto per i ragazzi, no? Però non tutto è perduto, stiamo facendo un lavoro con ActionAid proprio per trasformare queste scuole che sono nate un po' come un'infrastruttura per rispondere a un bisogno educativo in qualcos'altro, e lo facciamo insieme agli studenti, insieme ai ragazzi del liceo, no? E quindi per esempio in una scuola a Milano... E che cosa le hanno chiesto infatti i ragazzi? Ma i ragazzi sono straordinari, gli architetti dovrebbero anche un po' ascoltare un po' di più quelli che abitano la scuola, anche se siamo stati tutti studenti, no? Per esempio in questa scuola... nella periferia di Milano ci hanno chiesto di fare una biblioteca per loro, fatta da loro, con i loro libri, con i loro arredi. Abbiamo tolto un'aula, fatto delle grafiche a terra sui pavimenti, fatti dei cubetti gialli, messi degli scaffali, e quello è il loro spazio, non è lo spazio della scuola, ma è il nostro spazio nella scuola, no? Quindi credo che ci sia ancora un margine abbastanza importante per mettere a posto le scuole che abbiamo, perché tutte non le possiamo tirare giù ovviamente, però abbiamo anche bisogno che quelle che non funzionano proprio bene, bisogna fare un'operazione, un po' di coraggio, bisogna tirare giù quello che non va più bene e aprire uno scenario di una scuola invece che è più un centro di comunità. Abbiamo abbiamo posato la prima pietra a Pacentro, nel cuore dell'Abruzzo, in una piccolissima comunità. Una scuola che, a dire che è una scuola, è difficile perché è una multiclasse, però c'è una piazzetta interna dove c'è una biblioteca su rotelle che se la sposto diventa un piccolo teatro per i saggi dei bambini, ma nel weekend i genitori possono usarlo come cucina sociale e diventa il luogo di aggregazione. Allora questo mi sembra, come dire, un po'... un antidoto anche contro il tema del fatto che nelle città non si possa vivere bene, che ci sono dei conflitti. Allora la scuola diventa questo, diventa un antidoto, diventa quella pillola di bellezza che sistema gli equilibri sociali in un quartiere, in una parte della città, no? Ma io penso però, adesso Marco scusa se ti rubo un secondo, penso quando prima Marco Malvaldi diceva le scuole che frequentiamo, io ho frequentato scuole tutte in palazzi antichi, ex conventi, ex palazzo del comune, lì si può intervenire in parte sicuramente, ma forse non sono più adeguate proprio. concettualmente non va bene, anche per questo senso che lei diceva di comunità. Certo, certo. Beh, hanno quegli spazi, molti spazi, per esempio nelle nostre città storiche, no, è pieno di scuole che stanno dentro degli edifici del 500, del 600, che nonostante siano nel cuore della città, quindi con una serie di vantaggi anche di mobilità, diventano poi un problema dal punto di vista dell'organizzazione dello spazio. Io so, anche qui a Bologna ci sono delle scuole in palazzi meravigliosi che in mezzo all'aula c'è un pilastro con una volta, quindi diventa anche difficile per un docente organizzare un laboratorio diverso, no? Però è anche vero che si è parlato tanto di periferie, che non è una bella parola, che non mi piace, mi piace più dire la città moderna. Può essere la grande occasione della città moderna invece di avere dei luoghi nuovi, di costruire dei luoghi nuovi, anche perché davanti a noi abbiamo delle sfide straordinarie, come le sfide ambientali, no? L'agenda 2030, 2050, il Green Deal, tutte queste cose sono parte di una visione di futuro che sarà soprattutto fatta dai giovani di oggi, perché stiamo parlando di una proiezione nei prossimi 20 anni. Allora la scuola deve essere anche questo, deve essere il luogo dove i ragazzi capiscono che prima ci prendiamo cura di loro e secondo iniziamo un percorso sul cambiamento del clima, sui temi ambientali, proprio partendo dalla scuola. Allora è questa la riflessione, credo sia più importante da fare in un momento in cui si parla tanto di rilanciare le scuole, rilanciare con il Recovery Fund, cercare di investire su quello che è il futuro del paese. Quindi c'è molto lavoro da fare. Ecco. Ma Cucinella, una cosa, perché a me sempre, parlando di futuro e parlando di quello che i ragazzi vogliono fare, lei prima ha citato Pacentro, che è curiosamente il paese italiano d'origine di Madonna, della cantante, e la scuola, una scuola brutta per un allievo che impara in quel luogo può essere anche un posto dove la persona dice io qui non ci voglio tornare, e questo problema si ripropone 20 anni dopo, perché oggi come oggi l'insegnamento in Italia somiglia molto più a una missione che non a un lavoro. Se nei tuoi 20 anni tu dici io voglio fare il professore, il maestro elementare, il professore di scuola media, ti guardano come se tu avessi preso una botta in testa. Non sarebbe anche questo un modo per diciamo instillare nelle persone goccia di bellezza far pensare alle persone che frequentano le scuole io qui ci vorrei tornare, non solo non seduto dietro a un banco ma in piedi davanti a una cattedra? Beh, hai toccato un tasto molto importante ed è un po', come dire, la debolezza in questo momento del paese. Non abbiamo investito abbastanza nella qualità dell'architettura, perché ha un senso, no? Andare in una scuola bella dove ci sono gli spazi ben organizzati, dove, come sono ricerche recenti in cui dicono che i ragazzi imparano meglio nelle scuole ben progettate, dove il colore, la luce, l'aria, la ventilazione sono tutti elementi che danno un contributo positivo all'apprendimento, anche perché un ragazzo che sta in un'aula progettata male, che vuol dire che non ha abbastanza finestre aperte, è troppo piccola, è troppo bassa, dopo 2 ore in una classe il livello di CO2 aumenta drammaticamente. Se non c'è un sistema che aiuta a ventilare o a espellere il CO2, i livelli di attenzione cadono. Quindi costruire delle scuole che sono anche educative dal punto di vista dello spazio, no? del fatto che sei accolto in una cosa che è diversa da casa tua, perché è un luogo magico, la scuola è un luogo magico. Questa è la grande partita che ci dobbiamo giocare, ma che dobbiamo un po' recuperare. Io ho dei ricordi veramente straordinari anche della mia infanzia, che ho scoperto 50 anni dopo, che andavo in un asilo nido che è stato progettato da un architetto modernista, e mi fa così, è un po' romantico da dire, però forse anche quello che mi ha lasciato come esperienza può essere che sia rimasto, certo, da qualche parte. Rimasto. Allora dico sempre, l'architettura non si muove perché non si sposta, però viaggia nella memoria. Cioè, ognuno di noi ha dei ricordi di spazi, di luoghi dove ha avuto un'emozione, dove ha sentito qualcosa più vicino a se stesso. Quindi è evidente che la scuola è il luogo dove i ragazzi vanno tante ore tutti i giorni per 20 anni. Deve essere un luogo che in qualche modo, no, aiuta anche a immaginare. No? A me piace molto questa idea che io vado in una scuola dove oltre che imparare sto immaginando qualcos'altro, no? E a Guastalla facemmo qualche anno fa questo asilo nido ispirato al corpo di una balena, no? E io ricordo, a parte l'emozione dell'apertura dei genitori che hanno visto uno spazio che non potevano neanche immaginare, che i bambini sono esplosi di felicità correndo dentro questa scuola, dal giorno dopo gli insegnanti andavano a portare il curriculum per dire alla preside: noi vogliamo venire a insegnare qui perché questo spazio ci fa pensare anche qualcos'altro da insegnare, no? Certo. Allora vede quanto è importante la qualità dell'architettura associata alla didattica, no? Quindi ecco, c'è una partita, se vogliamo dire così, una partita molto importante da giocarsi. Io credo che il paese sia maturo, ma soprattutto sono anche maturi i ragazzi. Noi abbiamo fatto degli incontri con i ragazzi dei licei italiani, la lista dei primi 10 desideri sono qualcosa di straordinario, cioè il tema ambientale, il tema del recupero dei materiali, il tema dei rifiuti, il tema sì, perché socialità. Noi ne parliamo sempre, loro ne sentono sempre parlare a scuola, ma non vedono applicata a scuola esatto. No? Quella regola che gli viene insegnata. E tra l'altro sappiamo tutti, ma per esperienza, no, che un luogo ben tenuto, ben curato, ti ispira ad essere educato fondamentalmente. Certo. Beh, è una forma, io dico sempre, è un tema particolare, no? Perché costruire un edificio pubblico, in questo caso una scuola, no? È anche la rappresentazione di chi siamo noi, no? Noi, società civile, Stato, il governo, dice a quelli che vengono: guarda che mi sto prendendo cura di te, no? Quindi è anche la rappresentazione di una politica, di una società che sta cercando di far crescere le sue generazioni. Quindi gli edifici sono poi anche questo, no? Sono anche la rappresentazione della cultura di questo momento. Allora vogliamo farlo questo passo verso questa rappresentazione, anche una forma di dignità anche per le famiglie, no? Perché io porto mio figlio a scuola. E siccome la scuola è il luogo dove le famiglie si incontrano, perché non si incontrano solo i ragazzi, è il luogo dove le famiglie si incontrano, dove si conoscono, dove fanno le feste insieme, dove i figli sono di fatto un grande tramite di relazioni sociali. Però pensa che meraviglia, entro in una scuola e sento che questo paese mi sta accogliendo, mi sta dicendo chi siamo, no? E questo è il punto più fondamentale. Noi dobbiamo costruire degli edifici che dicono chi siamo noi, no? E noi chi siamo, cosa vogliamo dire, cosa vogliamo rappresentare di quello che stiamo. Allora, architetto, non voglio pensare cosa trasmettono al momento le nostre scuole sul chi siamo noi. Diciamo comunque che... siamo un po' distanti dall'obiettivo. Architetto Cucinella, grazie davvero per queste osservazioni, per questo collegamento, buon proseguimento, buon lavoro, alla prossima occasione. Grazie, buona domenica, arrivederci, a presto. Piccola pausa, tra poco. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. A proposito di mattoni, non potevamo non farvi ascoltare un po' di The Wall, Pink Floyd. Senti, ci senti Marco? Tutto a posto là? Assolutamente. No, vedi, invece abbiamo fatto bene a fare questa verifica perché è ritornata purtroppo la voce tremebonda del primo collegamento. Del resto capita così quando si è a distanza. Siamo a distanza in tante occasioni in questo periodo, abbiamo imparato a convivere con questi inciampi tecnologici. Oggi stiamo parlando di si può fare lezione, abbiamo parlato con Mario Cucinella di dove si fa lezione e adesso direi che possiamo parlare, Marco, con il prossimo ospite, di fare lezione per l'appunto online, di quanto questo è stato difficile da una parte ma molto utile per altri versi, no? Volentieri, adesso parliamo con un musicista, con Pietro Leveratto, compositore, contrabbassista, buongiorno, che ha suonato, ricordiamolo, con Chet Baker, questo signore, e che adesso insegna al Conservatorio Paganini di Genova. Come che va, Pietro? Che questo signore scrive anche, tra l'altro. vedo. Sì, scrivo, tra le mille attività. Scrivo, diciamo, immeritatamente scrivo, sì. Pietro fa tutto, Pietro fa, se qualsiasi cosa gli chiedi, Pietro la fa. Ecco, Pietro, tu insegni appunto contrabbasso, insegni composizione, insegni, però in questi tempi com'è stato insegnare una disciplina come la musica, dove di solito davanti o di fianco e talvolta anche sotto le mani l'allievo è fondamentale? È stata un'esperienza terrificante e siamo tutti ancora abbastanza sotto shock, perché sappiamo che anche quest'anno che comincia saranno le stesse condizioni, nel senso che tu puoi immaginarti, io vorrei che visualizzasse una stanza dove prova un coro, cioè il corso di canto corale è obbligatorio in conservatorio, con 30 persone, teoricamente con la mascherina a distanza di 2 metri, il direttore presunto o presunto tale, che è una persona di solito in età avanzata, ma il conservatorio, come tutte le scuole italiane, ha una classe di insegnante abbastanza age, che dirige dietro plexiglass, e dopo un quarto d'ora, 20 minuti, un'ora di lezione, la sanificazione dell'ambiente, cioè praticamente impossibile. La musica, purtroppo o per fortuna, emana molti droplet. Quindi noi siamo stati costretti veramente a fare un'operazione molto difficile. Io insegno composizione, chi fa materie teoriche se l'è cavata, perché attraverso Zoom mandavi le partiture condivise, ascoltavi gli audio, si riusciva a fare anche un lavoro decoroso. Per gli strumentisti è stato veramente un macello, perché fare lezione di violino o di batteria con Zoom o con Skype sul telefonino, magari con la connessione che salta, è praticamente impossibile. Certo, da un'altra parte, mi perdoni, pensavo che il fatto di vedere, le possibilità di vedere tanti video su, ovviamente come diceva lei, YouTube, altre cose, in una certa misura potesse aiutare l'allievo. Chiaro che manca il maestro di fianco, manca tutto, però ecco, qualcosa di meglio di un bambino della prima elementare forse si è riusciti a fare con la musica. Credo di sì, anche perché in realtà la generazione dei ragazzi, noi abbiamo studenti che sono persone giovani, logicamente, è abbastanza in qualche modo orientata all'idea che la musica sia una cosa anche di immagine. Il concetto di audio-video per loro è normale, per loro proprio il lavoro con quello che si vede muovere sul suo schermo è abituale, anche quando pensano semplicemente ai suoni. Quindi per loro è stato molto facile. Più dura per la categoria nostra dei docenti, che in certi casi avevano proprio il problema di incompetenza. Abbiamo imparato molto presto, non c'era scelta. Vabbè, lì era mangiare la minestra o saltare la finestra, direi. Io in realtà insegno da 42 anni, insegno a Santa Cecilia a Roma, dopo anni a Genova, che è un conservatorio molto grande, e che siamo sentiti quotidianamente con tutti i colleghi dei dipartimenti per darci informazioni, per cercare di muoverci, e per quanto mi riguarda è stata un'esperienza sicuramente formativa, tra virgolette, nel senso che abbiamo dovuto formarci rispetto anche a una cosa che i ragazzi già conoscono. Il vero problema resta quello del contatto, perché la musica è un'arte sociale, proprio bisogna toccarsi, non so come dire, no? E quindi questo aspetto qua è un aspetto che, per quanto riguarda la prassi, sarà impegnativa, come una soluzione non c'è stata trovata. In realtà non è sufficiente la distanza col video, che però offre dei vantaggi sicuri. Per esempio, devo dire la verità, i miei studenti durante il lockdown, che era una cosa noiosissima, lo sappiamo, non l'abbiamo fatto, avevano molto tempo, hanno prodotto moltissima musica, per cui c'era un sacco di cose belle uscite fuori in quel periodo, miste tra la disperazione, la noia e il bisogno di darsi un significato, insomma, sul lavoro. Ecco, Pietro, una cosa, visto che io do del tuo a Pietro Leveratto, perché abbiamo condiviso molte esperienze insieme, lui mi ha visto anche urlare in maniera indecorosa allo stadio dopo un gol. Ecco, questa cosa, la musica, è detto, è sociale, e secondo me la musica è formativa per una, diciamo, capacità umana che oggi come oggi stiamo perdendo, cioè ti insegna ad ascoltare prima di parlare, ti insegna ad aspettare il momento di entrare, ti insegna a lavorare in sinergia. Questo è un aspetto che è cambiato con gli anni. Cioè, io ho l'impressione che prima fosse naturale ascoltare, mentre adesso c'è un po' questa tendenza a tentare di suonare più forte, intendo nelle parole, non nella musica. Ai noi, questo stai toccando un tema che implica una tavola rotonda di 80 minuti, ci mettiamo in un ginepraio tremendo. Sì, come tu prima hai ricordato lo stadio, mi sembra interessante perché la musica ha delle componenti di affinità con lo sport molto rilevanti che non vengono quasi mai rilevate per l'appunto. Per esempio il fatto che esistano delle gerarchie interne che non sono semplicemente dovute al fatto che è più bravo, ma che sa fare bene quella cosa. Quindi per esempio chi suona come me, io sono un contrabbassista di origine, il contrabbasso è fa almeno assoli della tromba, lo sai, e ti piace fare questa cosa. Il trombettista sa perfettamente che ha bisogno di te per poter fare le sue cose. E contemporaneamente a questo c'è anche una grande lezione che la musica, ripeto, che lo sport anche in parte, anzi altrettanto, che è quella che quello più bravo di te è più bravo di te. Tu puoi massacrarti di allenamento, studiare 12 ore al giorno, che quello ha quella cosa che hanno che i Luigi, che hanno i grandi, insomma. E non c'è veramente invidia, per esempio, c'è rispetto, c'è, chi può seccare una volta. È proprio una relazione tra allievo e maestro, direi, no? In questo caso, cioè uno capisce e aspetta il suo turno, il suo momento. Ma è bellissimo anche da quando tu insegni a uno molto bravo, perché ti dici che posso fare con questo che è bravissimo? Posso fargli risparmiare un quarto d'ora del suo tempo e non fargliene perdere, no? E capire in che modo puoi essere veramente utile. In che maniera ti puoi accostare a questa persona che ha un talento musicale ancora magari grezzo, di cui tu vedi le possibilità che posso stavolta sono enormi. È bellissimo, è molto emozionante, non capita spesso. Quando capita è meraviglioso, insegnare in questo modo qua diventa fantastico, anche online. Cioè, lo capisci anche attraverso lo schermo e la connessione instabile e la latenza tra il suono e l'immagine. Sicuramente. Ma, Marco, avevi perché curiosità ce ne sono a bizzeffe. Io pensavo adesso una me l'ha già così tolta, nonostante il anche questa distanza, no? Questi secondi che a volte corrono veloci tra quello che vedi e quello che senti, o nel nostro caso nel collegamento come abbiamo avuto prima, qualche cosa che inciampa, così si sente comunque il talento e si riesce comunque certo non si riescono a fare le orchestre, no? Immagino le Verratti. Però si sente comunque la qualità, ecco, la capacità, la potenzialità del musicista. Io mi ricordo questo aneddoto bellissimo che mi è stato raccontato da un grande direttore d'orchestra, Daniel Harding, che Claudio Abbado dirigeva in maniera particolare, cioè a ogni strumento diceva quale strumento seguire, diceva al clarinetto tu per favore segui il contrabbasso, al violino segui il clarinetto, ai timpani segui il violino, creava una rete. Ecco, questa cosa di creare una rete è un qualcosa che uno spesso non capisce, perché uno dei lavori che non si riescono a giudicare è proprio quello del direttore d'orchestra. Come si fa a giudicare un direttore d'orchestra invece che sedersi lì e semplicemente ascoltarlo? Sì, è fantastico, bisogna stare in orchestra, nel senso che il lavoro vero è molto prima, cioè il direttore d'orchestra quando sale sul palco più delle volte è quasi, scusami, sembra un eccesso, quasi una coreografia, perché tutto il lavoro è costato alla concertazione, e anche lì c'è questa capacità. Alcuni direttori sono in grado di esprimersi con gesti molto misurati, alcuni sembrano dei tarantolati in effetti, perché è il modo con cui tu col tuo corpo ti relazioni al corpo dei musicisti. La musica è veramente una cosa che riguarda il corpo almeno quanto riguarda la mente, scusami la banalità, ma proprio così, no? Allora il direttore d'orchestra è quello che, perché te che ascolti, per te che suoni, che alla fine siamo in posizioni molto diverse, ma c'è una relazione ovviamente con la corpo, i suoni, riesce a portarti dove vuole lui, facendoti credere che sei tu che si sei voluto andare per forza, che è una cosa meravigliosa. Il bravo direttore è uno che ti fa suonare a una certa velocità, per esempio il tema della quarta di Brahms, e tu senti questa cosa come una tua esigenza, insomma. E così però dovrebbe essere, adesso scusate se irrompo e faccio come sempre il direttore del traffico, perché appunto siamo arrivati all'ora del traffico, così dovrebbe fare un buon insegnante comunque, portarti laddove vuole lui, convincendoti che anche un tuo spontaneo desiderio. Pietro Leveratto, la ringraziamo molto davvero per essere stato in collegamento con noi. Insegna al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, fa tante altre cose, scrive tra l'altro, ci sono anche dei suoi romanzi. Buon lavoro, buon proseguimento, buona domenica. Grazie, grazie a voi altrettanto, ciao a tutti, ciao Marco. Ci ritroviamo tra pochissimo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Resto, vieni qui, ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Tutti siamo andati a lezione, tutti diamo lezione di qualcosa, perché ciascuno di noi ha una professione, per esempio, quindi già solo trasmettere le sue competenze è fare formazione per qualcun altro. E adesso andiamo a toccare un campo, Marco, molto così inconsueto, direi, sia per me che per te, non lo so, perché noi siamo consumatori al massimo di dolci. Ma io quelle cose lì meravigliose, artistiche, che ho visto fare da Davide Malizia, non ho sicuramente la capacità di farle. Lui è un pasticcere, vincitore del Sucre d'Or del 2020, ha fondato anche la Aroma Academy. C'è un gioco di parole tra la Roma e Roma, ovviamente, Academy. Quindi da una parte ha ricevuto insegnamenti, da un'altra li dà, e comunque è sicuramente uno dei migliori nel suo campo quest'anno, anzi direi il migliore. Davide Malizia, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, lei è un lei è stato appena premiato per la sua capacità di lavorare lo zucchero artistico. Cioè, cosa fate adesso per spiegarlo a chi non può vedere le sue opere? In definitiva trasformo il semplice zucchero che viene messo, diciamo, nel caffè in vere e proprie opere d'arte, come il vetro di Murano viene soffiato, plasmato, e posso creare quello che veramente la fantasia più mi stimola, quindi fiori, personaggi, persone, quello che veramente è possibile fare. Lei viene da una famiglia di ceramisti, tra l'altro, quindi questa capacità di, no, manipolare, di creare, ce l'avete? Esattamente, vengo da una famiglia di ceramisti di Caltagirone, quindi è una storia veramente fatta di arte in casa mia. E il premio è un premio importantissimo, un premio leggendario che viene dato solo ogni 10 anni al miglior artista al mondo. Che non era stato assegnato l'ultima volta, scusami Marco, ti rubo la parola per l'ultima volta, non era stato assegnato per mancanza di un pasticcere capace di arrivare a quel livello lì. Come si fa a capire chi è il più bravo adesso? Beh, viene fatta una selezione su più di 100 candidati nel mondo e si guarda il personaggio negli anni, cosa è realizzato, le capacità, lo stile artistico, perché poi lo stile è molto importante, uno dei punti fondamentali per vincere proprio questo premio. Ma senta Malizia, una cosa, io sono un pisano di campagna, quindi io e il Galateo ci siamo frequentati poco e in maniera diciamo improduttiva per entrambi, ma una cosa che mi sono sempre chiesto, queste sculture si possono assaggiare? E se uno volesse assaggiarle, sono edibili chiaramente, potrebbero essere mangiate, e in che modo sarebbe opportuno farlo? Oppure se lo fai ti guardano come un parvenu? La seconda domanda che mi ha fatto è quella giusta. Fondamentalmente sono tutte commestibili, perché comunque sono a base appunto di zucchero e saccarosio, però è un po' come un quadro dipinto. Sarebbe strano vedere una persona che ridisegna sul quadro, quindi vengono fatte più che altro per bellezza o comunque per abbellire una torta nuziale, dare un tocco in più alla vetrina e poi proprio per esprimere la massima ispirazione del pasticcere. Ma invece io ne ho un'altra di... E quindi poi dopo cosa fa? Le conserva? O... Le conserviamo, sì, perché sotto delle teche durano anche degli anni e vengono messe in esposizione per i clienti o comunque gli studenti che passano nella scuola. No, una molto cosa, interessante. Prego. Una cosa, Malizia, una delle cose bellissime della pasticceria, secondo me, che ti insegna la precisione. Perché nel mondo della pasticceria i 90 gradi sono diversi dai 92 gradi e dai 95 gradi, e lo zucchero è una materia chimicamente molto molto molto delicata. Lei insegna una materia dove è necessario essere sia molto precisi sia anche, diciamo, lasciarsi trasportare dalla fantasia. Quale delle due cose si insegna prima? Cos'è che, diciamo, e per quali gradi si passa per arrivare a fare questo tipo di opera? Quando si lavora nel campo artistico ci sono varie possibilità, varie situazioni in base alla persona che chiaramente riceve poi la formazione. E in primis bisogna cercare di apprendere la tecnica, okay? E poi bisogna tirar fuori dalla persona la sua massima espressione artistica, perché comunque è molto importante, lo zucchero richiede tante ore di pratica, grande calma, pazienza e soprattutto bene conoscere la tecnica del baricentro, capire bene i pesi, capire bene le posizioni degli elementi, perché cade un filo, nello zucchero artistico cade tutta la scultura, fa effetto domino. Ma come ci diceva prima Leverato per la musica, si capisce subito chi ha talento? Sì, questo sì. Il talento è una cosa che non si compra né si apprende, è qualcosa che c'è nella persona e si nota subito, già dopo poco tempo, perché una persona che tra virgolette ha meno talento ci mette molto più tempo ad apprendere o comunque a fare del suo. La persona che ha talento nella metà del tempo si nota già subito delle creazioni che rimane a bocca aperta. Ecco, ma una cosa, in questa creazione di sculture, quanto c'è di commissione e quanto c'è di fantasia propria? Cioè, al momento in cui viene richiesta una particolare opera, una particolare scultura per una situazione, vengono fatte anche richieste molto particolari oppure si tende a lasciare all'artista la libera espressione, oppure ci sono persone che chiedono no, voglio questo, assolutamente questo, e poi magari si va anche a litigare? Beh, diciamo che ci sono delle commissioni anche spesso bizzarre o comunque su fantasia, ad esempio magari degli sposi o comunque di persone che magari molto importanti che hanno piacere di averle in casa, e quindi spesso e volentieri mi richiedono dei soggetti particolari. O comunque ci sono anche state delle persone anche di grande rilievo, sono molto famose, e mi hanno chiesto un pezzo artistico di mia fantasia da tenere. E come invece vorrei sapere in ultimo, in conclusione, gli alunni della Roma Academy chi sono? Sì. Sono persone già formate dalle scuole oppure sono persone che hanno laboratori e vogliono specializzarsi in questa forma d'arte magari? Cioè chi arriva lì, ecco? Abbiamo corsisti da tutta Italia e da tutto il mondo, e abbiamo corsi sia per persone che devono apprendere questo mestiere del pasticcere, quindi corsi da 4 mesi a full immersion, oppure corsi già per professionisti che lavorano nel campo da 3 o 4 giorni, che si formano con me o altri campioni del mondo di pasticceria o attraverso i MOF, i Miro Via de France. Ah, non c'è un prerequisito però, oppure fate una selezione, appunto fammi vedere cosa sai già fare e poi ti ammetto alla scuola? Il corso si chiama corso per apprendere, nessuna selezione. Allora c'è speranza, posso venire anch'io. Assolutamente, l'importante è la volontà personale, come dico sempre a tutti, io vengo dal nulla, da una famiglia che non aveva quasi niente, quindi la volontà personale è il vero futuro del successo. E direi che questa è una bellissima conclusione anche per questa puntata di Si può fare, che abbiamo dedicato al Si può fare lezione. Intanto ringraziamo Davide Malizia. Grazie a voi. Congratulazioni per questo premio internazionale e buon lavoro con la sua Roma Academy. Alla prossima. Marco, siamo giunti alla fine della puntata. Insomma, si può fare lezione? Sì, bisogna avere voglia di farlo, bisogna avere voglia di cambiare magari il modo in cui fare lezione, no? Possiamo chiudere la puntata così. Direi di sì, bisogna ricordarsi sempre che più che insegnare è necessario che l'allievo impari. Ecco, se si va in quella direzione, come diceva sempre Montaigne, in salita si cammina più sicuri che in discesa, si va più lenti ma si casca meno. Bello, mi piace anche questa, c'è anche la metafora, insomma, della... possiamo fare anche ciclistica, adesso poi c'è il Tour de France, il Giro d'Italia, vedetela ognuno come vuole, abbiamo parlato anche ieri del si può fare strada, quindi del cammino, della fatica. Marco, ci ritroviamo la settimana prossima, ormai è assodato, Marco Malvaldi dalle 9 alle 10 ogni domenica viene buttato giù dal letto per collegarsi con Radio 24, a meno che non sia ormai mattiniero, sono, non lo so. Ormai ci sono testimoni, quindi vi siete compromessi, quindi a domenica prossima. Anche tu ti sei volentieri compromesso. Grazie a Edoardo Lavezzari in redazione, Michele Michelazzo per la cura di questa puntata, in assistenza c'è sempre il nostro Edoardo... Paolo Corleoni è alla regia, noi ci ritroviamo la prossima settimana, sabato prossimo alle 8.30 con Si può fare da Laura Bettini, buon proseguimento. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.